Il risultato di 6.000 anni di esperimenti su questa linea avevano convinto uomini come Madison che fino a quando esisterà l'opportunità di usare la forza in modo sfrenato, qualche uomo lo farà. I governi hanno sempre avuto la funzione che ha ogni genitore. Ogni genitore fa le leggi, fa rispettare le leggi, giudica e punisce chi le infrange. È difficile dire con precisione quando è un legislatore, quando è un poliziotto o un giudice. Semplicemente pensa e agisce per prendersi cura del bambino. Così tutti i governanti viventi hanno sempre governato i loro sudditi. Le guerre civili inglesi sono state come liti tra genitori, in cui uno dice che l'altro tratta i figli ingiustamente. Il risultato è che condividono la responsabilità di governare. Il re e il Parlamento governano gli inglesi e la consuetudine, la coscienza e la prudenza limitano l'uso della forza. Il governo inglese, per così dire, non crede nelle sculacciate, non perde mai la calma. Il suo potere, tuttavia, è sempre lo stesso, il semplice potere di governare. Gli uomini che hanno scritto le Costituzioni hanno distrutto questo tipo di potere, lo hanno diviso in tre parti: legislativo, esecutivo e giudiziario. Questo è il primo attacco mai fatto all'uso della forza da parte del governo stesso. Immaginiamo che un genitore di un bambino di 3 anni possa fare un'affermazione generale sul fatto che i bambini non dovrebbero tirare la coda ai gatti, che una seconda persona possa vedere che questo bambino sta tirando la coda a un gatto e che una terza persona possa agire per separare il bambino dal gatto. Ma che non esista una persona che possa avere l'idea generale, vedere questa situazione particolare e agire tutte e tre insieme. In questo caso il bambino e il gatto si prenderanno cura di se stessi, impareranno con l'esperienza a prendersene cura. Questo era il risultato voluto dagli americani che hanno diviso il potere di governo in tre parti. Non consideravano gli esseri umani adulti come bambini indifesi. Sapevano che tutti gli uomini sono, per loro natura, liberi. Indebolire il governo, ostacolare l'uso della forza negli affari umani è l'unico modo per permettere agli individui di usare la loro libertà naturale. È dura per il bambino e per il gatto, forse è dura per gli esseri umani che non esista un'autorità che si prenda cura di loro, ma nessuna autorità esiste o può esistere. Nel mondo umano non c'è altro che persone singole nate libere. Questo è il fatto brutale. È un lavoro duro essere liberi, ma 6.000 anni di tentativi di fuga dalla libertà sono stati ancora più duri. Avendo diviso il governo in tre parti, i rivoluzionari hanno limitato ognuna di esse. La Costituzione federale, ad esempio, vieta agli uomini in carica di aumentarsi i propri stipendi, vieta al presidente di aggiornare il Congresso, gli vieta di stipulare trattati o anche di nominare i propri assistenti senza il parere dei membri del Congresso e il loro consenso. Vieta sia al Presidente che ai membri del Congresso di interferire con i tribunali. Vieta al Presidente e ai senatori di appropriarsi di denaro dal Tesoro federale. Vieta loro di imporre, riscuotere o spendere tasse. Solo i membri della Camera dei Rappresentanti sono autorizzati a farlo e sono soggetti a richiamo ogni 2 anni. In breve, la Costituzione vieta, esiste per limitare e frenare, controllare e ostacolare il governo americano. La Costituzione federale utilizza anche i governi federale e statale come controlli reciproci. Un americano ha due governi, o tre, o più, compresa la sua contea e la sua città. Dovrebbe sempre aiutare il più debole a controllare il più forte, perché questa sovranità divisa è la protezione della sua libertà. Queste divisioni e divieti crearono il governo più debole che potesse esistere in quel momento. Impedirono la monarchia. I rivoluzionari hanno poi continuato a impedire la democrazia. Consideriamo per un momento il problema. Ogni individuo è naturalmente autogovernato, ma poiché gli uomini devono unire le loro energie per vivere, in ogni grande numero di uomini ce ne sono alcuni che, beh, usano la forza per danneggiare gli altri. C'è la necessità di usare la forza per fermarli, cioè c'è la necessità di un governo. Il governo è un gruppo di uomini che ha il monopolio dell'uso della forza, ma poiché in quanto individui non sono più forti di chiunque altro, detengono il monopolio della forza solo grazie al consenso generale. Ogni governo trae il suo potere dal consenso dei governati. Questo fatto, sebbene sempre vero, era raramente conosciuto. La concessione del potere da parte della maggioranza era apparsa nella storia come regola solo quando la maggioranza non era d'accordo. Allora, per provocava ribellioni e guerre civili. I rivoluzionari americani conoscevano questi fatti. Il loro problema era quindi quello di escogitare un metodo con cui la maggioranza dei cittadini potesse dare o negare pacificamente il proprio consenso agli uomini di governo. Ma ecco il pericolo del governo a maggioranza. La democrazia era già stata sperimentata in passato più e più volte. Distrugge sempre la sicurezza personale e la proprietà e crea sempre rapidamente un tiranno che opprime la maggioranza fino a quando questa si ribella in una guerra civile. Questo è il problema. I greci non sono riusciti a risolverlo. I primi romani non riuscirono a risolverlo. Nessuno è mai stato in grado di risolverlo. I rivoluzionari americani hanno risolto il problema. Impedirono la tirannia non solo dividendo e controllando l'uso della forza da parte del governo, ma anche dividendo e controllando la maggioranza. La Costituzione federale originale consente un solo esercizio della regola della maggioranza. Dà alla maggioranza il potere di eleggere e di richiamare rapidamente i membri della Camera dei rappresentanti che valutano e spendono le tasse che la maggioranza deve sempre pagare. Alla maggioranza non era consentito esercitare alcuna azione diretta sul governo. I senatori non rappresentavano i cittadini e i cittadini non li eleggevano. Un senatore rappresentava il suo Stato nei rapporti con gli altri Stati. Gli uomini del governo del suo Stato lo nominavano. Negli Stati, né i cittadini eleggevano il Presidente. Il suo compito all'interno della Repubblica era solo quello di eseguire le leggi emanate dal Congresso. Ma negli affari mondiali era il sostituto del Re della Repubblica. Comandava l'esercito e la marina. E dietro consiglio dei rappresentanti dei cittadini e degli stati e con la loro approvazione, dirigeva il corso della Repubblica negli affari mondiali. Affinché potesse essere completamente libero di farlo, il presidente non doveva essere eletto dai cittadini o dagli stati, e quindi dipendeva da loro. Movimenti popolari, temporanei o cambiamenti dell'opinione pubblica non dovevano toccarlo. Gli interessi locali non dovevano essere in grado di esercitare pressioni su di lui. Il Presidente degli Stati Uniti non doveva rappresentare nessun gruppo di americani, nessuna sezione dell'Unione. Lui rappresentava la Repubblica. L'elezione del Presidente spettava agli americani rappresentativi, non appartenenti al mondo della politica, ma a uomini di spicco in altri campi. Essi dovevano votare per uomini che non erano cittadini dei loro stati. Questi elettori dovevano essere portati dal pubblico americano al governo, probabilmente solo una volta nella vita, per servire la Repubblica, scegliendo il suo rappresentante mondiale. Ci si aspettava che scegliessero tra tutti gli americani un uomo i cui risultati fossero ampiamente conosciuti e rispettati e che avesse dimostrato la sua capacità di tutelare gli interessi della Repubblica in un mondo ostile. Egli doveva essere in grado di avere una visione a lungo termine, di agire in piena libertà e senza alcun interesse personale per il benessere permanente della Repubblica negli affari mondiali. Questo era un governo rappresentativo. I cittadini comuni, il cui contatto con il governo e il pagamento delle tasse, erano direttamente rappresentati dagli uomini che valutavano le tasse e avevano il potere di richiamarli ogni 2 anni. I cittadini degli stati eleggevano gli uomini del loro governo statale. Questi nominavano il rappresentante dello Stato nel governo federale. Il presidente rappresentava tutti gli americani. Nessun gruppo aveva pretese particolari su di lui. E molti presidenti, in un momento di crisi, da quando questa libertà è stata sottratta alla loro alta carica, devono aver maledetto in silenzio l'emendamento che lo fa sprofondare fino al collo in una folla di uomini miopi, dalla mentalità locale, che lo stringono e lo tirano a sé con mille mani. Oggi quell'emendamento non permette al capitano di questa nave di Stato di prendere una decisione chiara e non condizionata dall'ignoranza, dai pregiudizi e dalle paure di tutti i passeggeri su tutti i ponti e di tutti gli uomini che giocano a poker nel bar della nave. Un transatlantico non potrebbe navigare per un giorno in queste condizioni. 7. Il diritto di voto. Quando i politici americani hanno preso in mano l'elezione del presidente degli Stati Uniti, non avevano idea che questo sarebbe stato il risultato. Nessuno allora immaginava che tutti avrebbero dovuto votare o che avrebbero mai votato. In tutti gli stati il voto era limitato. Oggi il voto è una superstizione americana. Quasi nessuno ci pensa mai. Gli americani danno per scontato che ogni essere umano abbia il diritto naturale di votare. Naturalmente questo non è vero. Nessuno ha un diritto naturale di voto. Tutti nascono con una libertà inalienabile, ma nessuno nasce con una scheda elettorale inalienabile. Il voto è un diritto legale, come il diritto di proprietà. Un diritto legale è una convinzione generale, prevalente tra le persone in qualsiasi luogo e momento, in base alla quale la polizia agisce o dovrebbe agire. Per esempio, nell'impero romano si credeva generalmente che un cittadino romano avesse il diritto di non essere torturato e ucciso arbitrariamente. Credevano anche che tutti dovessero adorare gli dei pagani, quindi Paolo di Tarso aveva il diritto legale di essere torturato e ucciso secondo la legge, e gli teneva molto a questo diritto legale. Ma qual era il suo valore? L'unico valore effettivo di un diritto legale è quello di proteggere effettivamente l'individuo nell'uso dei suoi diritti umani naturali, la sua libertà. Un uomo solo su un'isola o in montagna non ha alcun bisogno di diritti legali. Nulla interferisce con la sua libertà. Usa la propria energia per proteggersi dalle energie ostili non umane che lo circondano. Mettetelo in mezzo ad altri uomini e alcuni di loro lo attaccheranno. Nella civiltà non usa la propria energia contro di loro, perché gli uomini civilizzati delegano l'uso della forza bruta al governo. E il governo è un monopolio dell'uso della forza, quindi il governo, la polizia, agirà contro i criminali. La protezione effettiva della persona pacifica nella civiltà è il rispetto dei suoi diritti naturali, che la maggior parte delle persone sente. Questo atteggiamento generale si esprime nella legge, nei diritti legali che dovrebbero proteggerlo e che il governo dovrebbe far rispettare. In realtà, gli uomini di governo non possono proteggere nessuno, possono solo punire e uccidere coloro che lo hanno ferito. La polizia non può prevenire il crimine, punisce i criminali. Il diritto legale alla proprietà di un americano non gli impedisce di essere truffato o derubato. È l'autorità del governo a punire i truffatori e i rapinatori. Il diritto legale alla vita di un uomo non lo salva dall'essere assassinato. È l'autorità del governo a impiccare la persona che lo ha ucciso. Nessun americano è più sicuro oggi di quanto lo fossero gli americani alla frontiera, dove non c'erano né governo né diritti legali. Il governo non può prevenire i crimini perché gli uomini al governo non hanno controllo su nessuno se non su se stessi. La loro funzione è l'uso della forza, normalmente contro i criminali e in guerra contro il nemico comune. Ma cosa impedisce agli uomini di governo di impedire con la forza l'uso della propria libertà naturale? Beh, i suoi diritti legali, una convinzione o conoscenza generale dichiarata per iscritto e costantemente sostenuta da una maggioranza di persone viventi. Un diritto legale protegge l'individuo dall'uso arbitrario della forza da parte degli uomini di governo. Nella maggior parte della storia, e oggi ovunque il governo agisca come autorità assoluta, gli individui non hanno diritti legali. Hitler ha abolito solo ieri i diritti legali in Germania. Il valore di un diritto legale sta tutto nella sua capacità di proteggere gli individui dall'uso della forza da parte del governo. Limitare legalmente l'azione del governo al minimo possibile riduce al minimo possibile l'uso della forza negli affari umani, permettendo così alla grande maggioranza degli individui di parlare e agire con la massima libertà possibile. Proprio limitando il governo, la legge costituzionale americana permette agli americani di agire più liberamente di qualsiasi altro popolo sulla terra. Qual è allora il valore effettivo del diritto legale di voto di un americano? Le costituzioni limitano questo governo. Il voto può limitarlo ulteriormente, ma solo quando gli elettori eleggono i delegati alle convenzioni per rendere più forti le loro costituzioni, oppure quando gli elettori hanno l'opportunità di eleggere uomini che abrogano le leggi e riducono l'area di attività del governo. Il voto per i membri del Congresso non può abrogare le leggi. Il voto non potrà mai controllare il governo. Gli uomini che ricoprono cariche pubbliche sono individui e nulla al di fuori di un individuo può controllarlo. Le costituzioni limitano il tempo in cui un uomo può rimanere in carica, ma durante questo periodo egli controlla se stesso. Alla fine di questo periodo, la maggioranza degli elettori può revocargli l'incarico. Quindi il diritto legale di voto di un americano può essere usato come una minaccia per i titolari di cariche che vogliono essere rieletti. Ma la maggioranza degli elettori non potrà mai usare questa minaccia. Una maggioranza non può nemmeno sapere cosa fanno i propri membri del Congresso. Gli esseri umani devono impiegare le loro energie in un lavoro produttivo. Lo vogliono e lo fanno. Quanto più liberamente possono agire, tanto più energicamente migliorano le loro condizioni di vita e meno attenzione dedicano ad altro. Il fatto è che gli americani non prestano attenzione al governo finché non interferisce con i loro affari. Di solito non ci pensano mai, se non in occasione delle elezioni. Gli americani sono occupati, la metà di loro non conosce nemmeno i nomi dei propri membri del Congresso. Chiedetelo alle prossime 40 persone che incontrerete, se ne dubitate. Quindi la minaccia del voto non opera per limitare il governo e proteggere i diritti umani. Il fatto è che i gruppi di pressione la usano per aumentare il governo e limitare l'uso dei diritti umani naturali. Ogni politico americano è costantemente assalito da piccoli gruppi ferocemente determinati a far sì che gli uomini di questo governo superino i limiti costituzionali dell'uso della forza. Gli uomini stupidi credono che la forza possa migliorare la morale degli altri uomini. Vogliono che la forza impedisca agli uomini di bere, fumare o giocare d'azzardo. La superstizione offusca le loro menti. Immaginano che la forza possa produrre risultati economici. Chiedono che i club di polizia controllino la crescita dei raccolti, la produzione di beni, i salari, i prezzi e il commercio. Sognano che poiché una legge può rendere un'azione qualsiasi un crimine, essa possa fermare quell'azione. Anche se non conoscono la storia del contrabbando e del furto, dovrebbero essere in grado di ricordare la legge che ha fermato il bere in questi stati. A questi ardenti riformatori che vogliono fare il bene, come lo vedono loro, usando la forza sul maggior numero di loro inferiori, si aggiungono i gruppi di coloro che vogliono derubare gli altri con la forza senza rischiare di finire in prigione. Poiché il governo ha l'unico uso legale della forza, tutti questi gruppi cercano di persuadere e costringere gli uomini di governo a usare la forza come questi riformatori e questi ladri vogliono che sia usata. La loro arma è la minaccia di usare il voto alle prossime elezioni per mettere fuori gioco i politici che si oppongono a loro. E ogni volta che hanno successo e aumentano l'uso della forza da parte del governo, riducono l'area di liberazione di ogni americano, diminuiscono l'uso produttivo dell'energia di questo paese e indeboliscono l'unica protezione legale della proprietà, della libertà e della vita di ogni cittadino e cittadina americana. I gruppi hanno cercato di farlo fin dalla prima riunione del Congresso. Le costituzioni, la moralità e il patriottismo di alcuni politici, che non vengono quasi mai ringraziati, hanno protetto per tutto questo tempo i diritti umani naturali degli americani da questi gruppi di pressione che usano la minaccia del voto. La maggioranza degli americani non può avvalersi di questa minaccia. Non hanno tempo, sono troppo occupati, si guadagnano da vivere e sostengono il governo. Non possono passare il loro tempo a Washington o nelle capitali dei loro stati a guardare i membri del Congresso. Di tanto in tanto, in caso di crisi, possono suscitare un boato in tutto il paese e lo fanno, ma il loro voto non può annullare nulla di ciò che i membri del Congresso hanno fatto. Se c'è un candidato che promette di abrogare le leggi e di invertire un corso d'azione iniziato da uomini di governo, allora il voto può eleggerlo, ma eleggerlo non è una garanzia che manterrà la sua promessa. Potrebbe non essere in grado di mantenerla. Potrebbe essere uno di quei politici che fanno promesse solo per ottenere voti. Un cittadino medio non ha modo di conoscere personalmente un candidato, né di sapere quanto sia onorevole. In ogni caso, finché in carica, controlla se stesso. Gli elettori non hanno alcun controllo su di lui. Nel complesso, ovviamente, è una fortuna. Perché si pensa che la maggioranza dei cittadini debba controllare il proprio governo? Nessuno immagina che la maggioranza dei passeggeri debba controllare un aereo. Nessuno ipotizza che a maggioranza i pazienti, gli infermieri, gli ascensoristi e i cuochi e gli autisti delle ambulanze e i tirocinanti e gli operatori telefonici, gli studenti e le cameriere di un ospedale debbano controllare l'ospedale. Salireste mai su un treno Se tutti i passeggeri entrassero in cabine di attesa ed eleggessero il personale del treno a maggioranza, con la stessa intelligenza con cui eleggete gli uomini i cui nomi appaiono in liste davanti a voi in una cabina elettorale? Allora, perché si dà per scontato che ogni persona sia dotata al suo 21° compleanno del diritto e della capacità donati da Dio di eleggere gli uomini che decidono le questioni di filosofia politica e di diplomazia internazionale? Questa credenza fantastica non fa parte della rivoluzione americana. Thomas Paine, Madison, Monroe, Jefferson, Washington, Franklin non l'hanno presa in considerazione nemmeno per un momento. Quando questa convinzione ha toccato per la prima volta il governo americano, ha spezzato il cuore di John Quincy Adams. Per lui significava la fine della libertà sulla terra, lo faceva dubitare della bontà del suo Dio. La superstizione secondo cui tutti gli uomini hanno il diritto di voto è un trionfo del ragionamento del vecchio mondo. È praticamente impossibile sradicare le antiche superstizioni dalle menti del vecchio mondo quando devono ammettere un fatto. Lo stravolgono per adattarlo alla superstizione. Per esempio, credono che non ci sia energia nell'universo, così, quando hanno dovuto ammettere che la Terra gira nello spazio, hanno immaginato l'universo meccanicistico in cui il movimento è immobile e l'energia stessa è statica. Altrettanto ostinatamente credono che l'autorità, il governo, controlli tutti gli uomini. Se non negano apertamente che gli uomini siano liberi, ragionano in questo modo. Per controllare se stesso, un individuo deve controllare il governo che lo controlla. Non è una cosa luminosa. Ecco i due punti di vista. Il rivoluzionario sostiene che ogni essere umano è naturalmente autocontrollato, pertanto le condizioni migliori per la vita umana sono quelle che meno interferiscono con l'esercizio della libertà naturale dell'individuo. Egli può agire più liberamente quando nessun altro uomo usa la forza per impedirgli di agire. Il governo è un gruppo di uomini che hanno l'uso della forza. Il governo è necessario per fermare i criminali, ma qualsiasi uso della forza da parte degli uomini sugli uomini è un male, perché la forza non ha alcun valore o effetto morale. Pertanto, le condizioni migliori sono quelle in cui il governo è limitato al minimo possibile e un ulteriore progresso verso un maggiore uso della libertà consiste nel ridurre e limitare ulteriormente il governo. La convinzione della vecchia mentalità, invece, è questa. Individui sono cellule di un organismo più grande. Tutti gli uomini sono naturalmente dipendenti, obbedienti e controllati dall'autorità. Comunisti, fascisti e nazisti lo dicono con un cliché. L'individuo non è niente, tra virgolette. Il governo è un'autorità che controlla le masse ed è responsabile del loro benessere. Pertanto, più forte è il governo, meglio è per le masse. La libertà e il diritto delle masse di scegliere gli uomini che le controllano. È dubbio se sia consigliabile concedere alle masse questa libertà, ma se viene concessa è un diritto di voto. Ci sono due punti di vista. Non possono essere conciliati, non possono essere combinati. Il motivo per cui la rivoluzione americana è una rivoluzione mondiale è proprio l'antagonismo fondamentale tra questi punti di vista. Qui, come Devana, mi sento di fare un inserto, quello che ho sostenuto nel mio libro Economia e il futuro senza denaro. Gli organismi, gli esseri umani possono benissimo sentirsi parte di un unico grande organismo, più grande dei singoli individui, ma non per questo avere bisogno di leggi o di governi o di controllo, poiché è la spiritualità che conferisce loro un supremo rispetto degli altri membri, delle altre persone della comunità, e quindi ciascuno agirà nell'interesse della comunità, comprendendo che l'interesse della comunità, il benessere della comunità e anche il suo proprio benessere. La spiritualità è la chiave per questo salto di consapevolezza e di frequenza che ci porta a sentirci come un unico grande organismo senza necessità di essere controllati. Probabilmente Rose Wilder non era ancora arrivata a questa comprensione che l'anello mancante, appunto, l'anello di congiunzione è proprio la spiritualità. Riprendo la lettura di Rose Wilder. Un secolo e mezzo fa gli americani hanno riconosciuto il fatto che tutti gli uomini sono liberi. La rivoluzione limita il governo. La limitazione del governo americano permette ogni individuo di questi stati di esercitare la propria libertà naturale in misura maggiore di quanto sia possibile fare in qualsiasi altra parte del mondo. Uno degli effetti della rivoluzione è che alcuni europei hanno adottato la convinzione che la libertà debba essere consentita, cioè che tutti gli uomini debbano votare. Negli ultimi 40 anni questa convinzione è aumentata anche negli Stati Uniti. Ciò mette questi pensatori in difficoltà pratiche perché l'universo meccanicistico può rimanere nel regno della fantasia, ma gli esseri umani sono reali. Quindi questi pensatori del vecchio mondo devono lottare con la domanda: come possono tutti gli individui controllare il governo che li controlla? Ovviamente non è possibile per ogni persona controllare se stessa controllando qualcun altro che la controlla. Quindi si dice che ogni individuo ha il diritto di votare e che la maggioranza dei voti deve controllare il governo che controlla tutti i cittadini. In questo modo il maggior numero possibile di persone controllerà il governo che le controlla. Che ne è allora dell'esercizio della libertà da parte degli individui in minoranza? Devono sottomettersi al controllo della maggioranza. Ognuno dovrebbe essere felice di sacrificarsi, come facevano i greci, al dio pagano Demos, il popolo. Il numero maggiore, la maggioranza. La voce del maggior numero è la voce di Dio. Se qualcuno non è disposto a obbedire al maggior numero, alla maggioranza, è scandaloso, è antisociale. Bisogna far sì che si sottometta e obbedisca. E come si fa a costringerlo a sottomettersi? Con la forza, naturalmente, con la polizia. Questo non è il ragionamento degli americani che hanno scritto le costituzioni, che proteggono la libertà individuale. Non è il ragionamento di molti americani di oggi, ma è il ragionamento che ha portato all'estensione del voto in questi stati per mezzo secolo. Piccoli gruppi di riformatori ferocemente determinati a fare del bene agli altri hanno ottenuto queste estensioni usando la minaccia del voto su titolari di cariche. Alcuni politici disonesti e fanatici li hanno aiutati, hanno lavorato contro la grande indifferenza della maggior parte degli americani. Per esempio, le donne americane non volevano votare. La signorina Alice Paul ha imposto il suffragio femminile al Congresso e alle legislature statali. Queste estensioni del voto vanno in due direzioni: coinvolgono un numero crescente di persone e gettano un maggior numero di titolari di cariche in pasto ai lupi di una passione o un interesse comune sentito dalla maggioranza. Il senso comune americano non attribuisce molta importanza al voto. Nelle normali elezioni passate, nemmeno la metà degli elettori qualificati si è presa la briga di votare. La tipica reazione americana al voto è: a che serve? In primo luogo, nessuno può votare in modo intelligente, a meno che non dedichi tutto il suo tempo alla politica e non conosca personalmente ciascuno dei candidati di entrambi i partiti. La maggior parte degli americani è troppo impegnata a impiegare le proprie energie per aumentare il tenore di vita degli americani. In secondo luogo, il voto non controlla gli uomini in carica. La protezione della libertà di un americano non sta nel voto, ma nella restrizione costituzionale dell'interferenza del titolare della carica con gli altri individui e nella vigile difesa di ogni americano dei diritti umani, i propri e quelli di ogni altra persona, attraverso l'azione individuale e reciproca in tutte le relazioni umane. In terzo luogo, l'idea stessa di maggioranza è un'illusione. Ovunque si applichi quest'idea, il risultato effettivo è che la decisione è presa da pochi. Tutti i voti sono, per così dire, pari e il presidente esprime il voto decisivo. Poche centinaia di migliaia di voti hanno deciso elezioni in cui hanno votato milioni di americani. Nel 1916 il signor Hughes si congratulò con il presidente eletto per quasi 24 ore, prima che un'ultima piccola pioggia di voti dalla California rieleggesse il signor Wilson. Gli americani medi hanno buon senso, sanno che ci sono sempre abbastanza elettori stupidi, ignoranti e disonesti per vincere qualsiasi elezione. Sanno che i demagoghi, i bugiardi, le bande di montanari, gli attori e gli oratori popolari, i picnic gratuiti e la compravendita di voti possono sempre raccogliere abbastanza elettori. Sanno che queste estensioni del diritto di voto hanno fatto crollare gli standard morali della politica americana e hanno talmente superato il carattere morale dei politici americani che entrambi i partiti usano questi metodi per ottenere voti. E che quindi un'elezione è solo un evento sportivo, come una partita di pallone, il cui esito dipende sia dalla fortuna che dall'abilità, e il cui scopo non è altro che far entrare le schede nelle urne e gli uomini nelle cariche. Indubbiamente queste estensioni della franchigia sono pericolose per la libertà individuale e i diritti umani. Sono pericolosi perché, modificando le costituzioni, distruggono il governo rappresentativo e aumentano il pericolo della democrazia che crea sempre un tiranno irresponsabile. E sono pericolose perché sono fatte nella superstiziosa convinzione che gli individui possano controllare un governo che può controllare gli individui e quindi tendono ad aumentare la falsa convinzione controrivoluzionaria che il governo sia un'autorità che controlla gli uomini e che è responsabile del loro benessere. Le moltitudini che votano ci credono sempre di più e chiedono che il governo sia responsabile delle loro condizioni di vita. Il fatto è che nient'altro che l'energia umana che lavora in modo produttivo può produrre qualsiasi necessità della vita umana, qualsiasi condizione di vita umana. Gli uomini di governo non possono essere responsabili di attività che non controllano e che non potranno mai controllare. La polizia non può controllare il lavoro di un uomo più di quanto possa controllare il suo bere o il suo respirare. L'intera storia lo dimostra, se non lo dimostra il buon senso. La regolamentazione governativa, il controllo, tra virgolette, governativo rallenta la produzione, la ostacola, la impedisce, la riduce e non può assolutamente controllarla. Quanto più gli uomini del governo americano dipendono dal soddisfacimento delle richieste popolari e quanto più gli americani credono che il governo sia un'autorità di controllo, tanto più questo governo è costretto a usare la forza per ostacolare e limitare l'esercizio della naturale libertà individuale, cioè per impedire che l'energia umana lavori sotto il suo naturale controllo e per il suo naturale scopo produttivo. La legge costituzionale e la coscienza del politico americano resistono ancora a questo attacco all'esercizio dei diritti umani naturali in questa Repubblica. Ma in questa democrazia crescente non c'è, come diceva Madison, nulla che controlli gli incentivi a sacrificare la minoranza più debole. Non c'è protezione per la proprietà o la sicurezza personale di nessuno. La crescente convinzione che tutti abbiano il diritto naturale di votare, perché il voto è il controllo di massa di un governo che controlla gli individui, è controrivoluzionario in questi stati. È un revival dell'antica superstizione del vecchio mondo. Minaccia la casa, la libertà e la vita di ogni americano, minaccia l'esistenza della Repubblica e la sopravvivenza della rivoluzione. In origine, l'uso del voto a maggioranza nel governo americano serviva solo a controllare il governo. La legge costituzionale dava alla maggioranza dei contribuenti la possibilità di richiamare rapidamente gli uomini che valutavano e spendevano le loro tasse. Vale la pena di riflettere su questo principio. L'utilizzo di questo principio oggi altererebbe la struttura dei governi statali, poiché il popolo di ogni Stato determina le qualifiche degli elettori. Ma la caratteristica unica del governo americano è la sua flessibilità. Gli americani adattano sempre la struttura del loro governo alle nuove condizioni che l'energia americana crea costantemente. La legislatura di uno Stato o una convenzione di delegati possono sempre redigere una nuova Costituzione. Applicare il principio dell'uso del voto non come controllo immaginario e impossibile degli uomini in carica, ma realisticamente nel modo rivoluzionario americano, come controllo degli uomini in carica. Gli effetti oggi sarebbero innumerevoli. Per esempio, solo i proprietari di automobili voterebbero per i membri delle commissioni autostradali o pagherebbero le autostrade. I proprietari eleggerebbero i commissari con voto diretto, pagherebbero direttamente le tasse per la costruzione e la manutenzione delle autostrade e rieleggerebbero o non rieleggerebbero spesso i commissari. Naturalmente il governo americano non avrebbe mai dovuto interferire con le autostrade. Gli americani avevano creato una libera associazione mutualistica, l'American Automobile Association, che si occupava con competenza di tutte le nuove questioni derivanti dall'invenzione dell'automobile. l'impresa privata aveva creato e costruito la prima autostrada americana transcontinentale. I liberi costruttori e proprietari di automobili avrebbero coperto il paese di autostrade così come i liberi americani lo avevano coperto di strade carrozzabili. Gli americani volevano auto e autostrade. Non c'era bisogno di una forza di polizia che prendesse i loro soldi e li spendesse per le autostrade. Ed è un'ingiustizia nei confronti degli americani che non possiedono automobili costringerli a pagare per le autostrade. In generale, l'uso del voto sulla sua base genuinamente americana permetterebbe agli elettori di votare in modo intelligente per quanto riguarda i loro affari personali con cui il governo ha a che fare e per alcuni uomini che essi naturalmente guarderebbero. Darebbe ai contribuenti un controllo diretto sulla spesa del loro denaro fiscale e sugli uomini che lo valutano e lo spendono. E sarebbe certamente un gradito sollievo e aiuto per ogni politico americano onesto in carica e un incentivo per gli americani capaci e onesti a entrare in politica.